9 in punto, la versione di Oscar. Mi devo scusare, sicuramente capirete immediatamente il perché dal tono di voce, perché l'influenza mi sta aggredendo, quindi la mia gola è un po' arrossata e temo che sentirete rumori impropri. Me ne scuso davvero tantissimo, perché già in radio io ho qualche difetto abituale di respirazione che si deve a postumi dei miei vecchi malanni, e oggi mi sento ancora più inadeguato, e quindi mi scuso mille volte con voi. Il tema di cui ci occupiamo in questa puntata è il rapporto tra Stati Uniti e Cina. Tutti quanti sappiamo in questi giorni che il viaggio in quattro tappe nel continente asiatico del presidente Barack Obama è deliberatamente volto a rimettere al centro dell'agenda internazionale un tema di fondo. Il tema di fondo è che nel mondo colpito in profondità dalla crisi finanziaria, che nell'autunno del 2008, dopo lunghi mesi di preavviso e incubazione nei mercati finanziari, è esplosa nell'economia reale, ci consegna un mondo in cui in effetti l'ambizione dell'Europa di essere a peso crescente nella governance mondiale, diciamo così, è sempre più un'ambizione, una illusione. La realtà è che nel G20, l'organo di allargato di coordinamento delle politiche economiche, che è stato individuato come il foro in cui bilanciare le tre grandi aree macroeconomiche del mondo, a contare davvero sono in due paesi, il cosiddetto G2, cioè gli Stati Uniti e la Cina, ed è in Cina in questi giorni Barack Obama. Tenteremo di capire insieme ai nostri ospiti quali aspetti sono centrali in questo rapporto bilaterale tra Stati Uniti e Cina, e quali di questi aspetti fondamentali ha le conseguenze più dirette, l'impatto più immediato rispetto alla situazione del nostro paese. Perché, voglio ricordarlo, il nostro paese è colpito nell'Unione Europea, insieme alla Germania, più di altri paesi, dalla contrazione del prodotto interno lordo, perché siamo un paese che esporta e che abbiamo più manifattura degli altri insieme alla Germania, e per questo quindi siamo in più forte contrazione, perché lo stop del commercio mondiale seguito al Lehman Brothers è stato un fenomeno largamente imprevedibile per intensità, ma che ci ha colpito nel traino del nostro prodotto interno lordo. Ora la questione è: con gli Stati Uniti che chiedono alla Cina di sbloccare il PEG, cioè il rapporto semifisso che vincola lo yuan renminbi, la moneta cinese, al dollaro, e chiedono ai cinesi di sbloccarlo perché chiedono di rivalutare rispetto al dollaro, chiedono che rispetto a 6.5 più o meno renminbi yuan per un dollaro si passi a 4.8, 4.5, cioè si è fondamentalmente convinti che ci sia una sottovalutazione fino a un terzo del livello attuale per via di questo rapporto fisso tra valuta cinese e dollaro americano. Hanno ragione gli americani dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle tipologie dell'esportazione italiana? Ci conviene cioè un yuan che rivaluti, anche se a quel punto sarebbe un dollaro più debole? Oppure in realtà questa che è la posizione ufficiale dell'Europa, e quindi bisogna intendere anche dell'Italia, non è proprio così saggia, perché significherebbe dimenticare che da un dollaro debole noi stessi saremmo esposti a delle conseguenze di sbilancio del deficit energetico ulteriore ancora e di inflazione interna forse un po' sottovalutate rispetto alle conseguenze benefiche dello yuan invece apprezzato. Ecco, può sembrarvi una domanda lontana dalla realtà della crisi, della disoccupazione che vivono centinaia di migliaia di italiani. Non lo è affatto, perché agganciamo in maniera più intensa e rapida il commercio internazionale, non bisogna mai dimenticare il metro monetario in cui questo commercio internazionale avviene, è ancora quello del dollaro, ci piaccia o meno, e quindi intorno a questi interrogativi, ma insieme anche a quelli politici, a quelli dei diritti umani e così via, ruoteranno le testimonianze e le opinioni dei nostri ospiti. Iniziamo con il professor Giacomo Vaciago, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ecco, alla domanda, per così dire, che ho messo un pochino piatta giù, ci conviene più la rivalutazione dello yuan oppure verremmo comunque colpiti da conseguenze negative di un dollaro che a quel punto si svaluterebbe? La sua risposta qual è? Beh, anzitutto che ovviamente quello che sta avvenendo è per noi il male peggiore, cioè noi abbiamo in questo momento di cambio fisso dollaro yuan tutti e due deboli sull'euro, pur essendo i due paesi in forte crescita di export netto. Attenzione, buona parte della ripresa americana di quest'anno è da dollaro debole, oltre che da precedente caduta delle importazioni. Però adesso stanno aumentando molto le esportazioni nette degli Stati Uniti e questo è quello che fa riprendere l'America, più che i bassi tassi, è il basso dollaro. Peccato che è basso su tutti, meno che sulla Cina e sull'Asia, che rimangono a cambi fissi. Quindi noi abbiamo al momento, noi euro, un forte apprezzamento globale perché ci apprezziamo sul dollaro e sulle monete al dollaro legate, che sono già in surplus di export e quindi in base alle teorie fondamentali dei cambi dovrebbero essere monete destinate a rivalutarsi. Peccato che la Cina è ancora un paese che dell'economia di mercato prende solo ciò che sceglie e quindi la teoria che nelle economie di mercato moderne i cambi si apprezzano quando c'è un surplus e si deprezzano quando c'è un deficit, questo in generale dovrebbe andare bene a tutti, lo capiscono anche i bambini, la Cina è una moneta che si deprezza su di noi pur essendo già in surplus su di noi e quindi chiaramente scarica su di noi una parte dei suoi guadagni di competitività. Attenzione, noi dovremmo pretendere un apprezzamento dello yuan sul dollaro, non tanto l'America, la quale bene o male col cambio fisso con la Cina importa deflazione dalla Cina, cioè importa cose economiche e quindi le va anche bene così tutto sommato. Ma noi stiamo pagando i costi, noi zona euro, stiamo pagando più del dovuto i costi dell'aggiustamento, perché non abbiamo un enorme surplus e ciò nonostante ci apprezziamo. Professore, se guardiamo al dibattito degli anni recenti, da che siamo entrati nell'euro e così via, non le pare che l'ambizione che l'euro potesse guadagnare spazio progressivamente, ma in un voglio di tempo in definitiva non troppo lungo, come moneta di riserva, come moneta alla quale ancorare mercati di riferimento come quelli delle commodities, dell'energia da parte di importanti paesi produttori, dei futures dei mercati alimentari, non si sia rivelata la prova dei fatti in realtà un'illusione malfondata? Ma diciamo che a Francoforte prima Duisenberg e poi Trichet non hanno mai coltivato l'idea che l'euro dovesse essere una moneta globale. Già ancora oggi in giro per il mondo Trichet a reclamizzare l'euro non ci va mai. La missione l'hanno percepita esattamente come i padri fondatori dell'euro l'hanno voluto, cioè grazie all'euro l'Europa si integra e io ho visto in questi anni matrimoni non solo fra italiani, francesi e inglesi, ma matrimoni tra aziende, cioè l'euro sta contribuendo alla crescita dell'Europa. Se diventasse una moneta globale ne avremmo benefici ma ne avremmo anche problemi. E Trichet in questa fase giustamente ha evitato di valorizzare l'euro come futura grande moneta in giro per il mondo. Non facciamo nulla perché diventi importante nelle riserve delle altre banche centrali e nulla perché venga usata fuori dall'Europa. Attenzione, è usato un po' in Romania e in Polonia l'euro, ma perché ha ereditato la lira in Romania e il marco tedesco in Polonia, che erano due diciamo aree monetarie affini alla Germania, alla Polonia e all'Italia e alla Romania. Non troviamo euro in Africa, non troviamo euro in Asia, cioè non si fa nulla per promuoverne l'uso globale, come invece da un secolo succede per il dollaro. Quindi direi che in questa fase l'euro è strumento di integrazione, serve a costruire l'Europa. È la missione che 15 anni fa gli fu data e credo che Trichet la stia facendo benissimo. Però lei dice non hanno contemporaneamente fatto questo e non ho capito bene se in realtà lei li giustifica perché è stata una strategia graduale, meglio non fare il passo più lungo della gamba, oppure se sottinteso sia forse si poteva fare qualche cosa di più eppure la prudenza è prevalsa. Non ho capito bene nel suo giudizio. No, io credo che giustamente condivido la prudenza di Trichet. In altre parole, abbiamo già abbastanza problemi in Europa a costruire questa integrazione partendo dalla moneta, cosa che da Adamo ed Eva non fu mai tentata. Le unioni monetarie non politiche sono tutte fallite nella storia. Noi stiamo tentando una cosa originalissima. Si inizia dalla moneta, cosa che di solito non si fa perché la moneta è sovranità e quindi arriva dopo. Dico, la lira in Italia arrivò dopo Garibaldi, non prima. Non mettemmo insieme l'Italia cominciando ad adottare tutti la stessa moneta dalle Alpi alle piramidi. Chiaramente la moneta è Stato, è sovranità, e noi invece stiamo facendo finta che l'Europa già esista e 16 paesi siano già qualcosa che si merita la stessa moneta. E quindi chiaramente chiunque sia, se io andassi a lavorare a Francoforte, sarei ben conscio della difficoltà di questo esercizio. Cercare di avere già un ruolo globale che ha benefici in termini di signoraggio, ci guadagni, stampare una banconota da $100 costa molto meno dei $100, quindi tutte le banconote che Washington stampa e mette in circolazione nel mondo, a parte i falsi, sono tutte banconote che gli rendono. Il signoraggio è un beneficio per il paese, però intendo dire, hai anche le mani legate in tante cose, devi sapere che poi dopo tutto il mondo ti dà la pagella quando decide il valore della tua moneta, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che ci sono costi e benefici, il bilancio è positivo se tu sei già una potenza globale. L'Europa deve ancora nascere, come fa a essere già? Abbiamo un solo esercito, abbiamo una sola politica estera, questo forse l'anno prossimo si inizia, ma ci sarà ancora da imparare molto. Professor Vaciago, al di là del fatto che probabilmente fare solo moneta senza politica, poi alla fine, se l'esperienza dimostra che poi se saltano, forse è un'ambizione anch'essa un po' malfondata. Diciamo la verità, qualche grande accademico americano di tendenza un po' liberista che era scettico su questo, vedremo se la prova dei fatti non avrà ragione, cioè se non sarà necessario fare l'Europa politica. Ma la mia domanda è un'altra: l'esperienza di questa crisi, cioè la crisi che avviene per la prima volta in una globalizzazione degli scambi così avanzata, perché tutti fanno sempre il paragone rispetto al 1914, dicendo in realtà la quota di scambi sul PIL anche all'epoca era quasi paragonabile, però dimenticano che i valori naturalmente sono molto diversi e quelli di oggi sono incomparabilmente maggiori. Ecco, questa realtà è il fatto che il regolatore monetario di una delle tre grandi aree del mondo abbia, e come è evidente, impatti molto profondi sugli andamenti anche degli altri due macro aree del mondo. Non obbligherebbe a ripensare un po' gli strumenti della politica monetaria? Voglio dire, noi siamo reduci da alcuni decenni in cui c'era un grande dibattito se i banchieri centrali dovessero darsi misure di inflation targeting, cioè di controllo del livello dei prezzi, naturalmente ciascuna commisurata al proprio mercato di riferimento, insieme a l'altro indicatore, diciamo ciò che separa il livello di prodotto potenziale stimato dal regolatore monetario rispetto agli andamenti reali del prodotto stesso, in maniera tale da usare i tassi di interesse per sostenere l'utilizzo dei fattori produttivi fino a un livello considerato non troppo inflazionistico. La domanda che le faccio è: questa crisi mondiale, di cui ci riempiamo sempre la bocca dicendo ci deve insegnare a cambiare molte cose rispetto a prima, non obbligherebbe a pensare a un mondo in cui la Fed, cioè il regolatore monetario americano, la banca centrale cinese e la BCE in qualche maniera si parlassero e si coordinassero anche sui tassi di interesse e quindi anche un po' sui tassi di cambio in maniera coordinata ma strutturale? Cioè, è possibile pensare ancora che noi subiremo le decisioni dei tassi di interesse soprattutto americano e le decisioni soprattutto cinese di non sentire sul cambio semifisso, ignorando quindi i fondamentali, come ci ha appena detto lei, e noi l'euro a prenderci in definitiva le conseguenze negative degli uni e degli altri? Non bisognerebbe cambiare qualcosa? Perché l'Europa e i politici europei, secondo lei, non mettono questo punto al centro del tavolo? Beh, siamo in emergenza e nelle riunioni del G20, cui vanno sempre anche i banchieri centrali, attenzione, questa integrazione politica e moneta è già di fatto in funzione. Quando vediamo le riunioni del G20, vediamo Berlusconi, ma vediamo anche Draghi, perdon, Draghi lo vediamo due volte perché è anche capo del Financial Stability Board, ma ci sarebbe anche come governatore, e c'è Trichet ovviamente sempre accanto a Mervyn King, accanto a Bernanke, eccetera. Allora, i banchieri centrali in questo momento stanno ancora facendo i pompieri, stanno ancora facendo il loro mestiere, cui sono bravi, di risolvere l'emergenza. Io spero che queste riunioni, come in passato successe nei momenti di cambiamento, ricordiamoci il 71, l'uscita del dollaro dal sistema monetario basato sull'oro, oggi l'oro va alle stelle, ma è una protezione dalla paura, non ha conseguenze monetarie, mentre fino al 71 il dollaro era legato a tot once d'oro. Allora, dicevo, i banchieri centrali stanno facendo i pompieri, spero che questa abitudine di trovarsi non solo Trichet con i suoi 16 nazionali, ma anche tra aree, prosegua e si consolidi e serva a ragionare assieme. I paesi competono, i governanti cooperano, questo è il bello dell'economia globale. L'Italia è in competizione con la Francia, oltre che con l'America e così via. I nostri governanti dovrebbero avere la capacità di occuparsi di ciò che hanno in comune e quindi la stabilità globale, eccetera, eccetera, che è un bene comune. Il professor Vaciago usa dei condizionali che sono trionfo di diplomazia, io lo ringrazio di questo. Naturalmente vi invito ad ascoltare che cosa dietro quel condizionale ci sia davvero, cioè se poi questo dovrebbero sia, lo fanno davvero abbastanza oppure no. Ci ha raggiunto il professor Carlo Pelanda, che insegna politica e economia internazionale alla University of Georgia ed è co-direttore di Globis, un centro di studi sugli scenari globali. Buongiorno professor Pelanda. Buongiorno. Ecco, la sua risposta alla domanda: ma ci conviene più uno yuan che rivaluti, oppure stiamo sottovalutando poi le conseguenze che ci capiterebbero di inflazione e di energia con il dollaro che si svaluta? La sua risposta qual è? Cosa ci conviene davvero? Beh, diciamo, se dovessi prendere delle fonti di ricerca direi che non lo sappiamo, perché sono tutti fenomeni nuovi. Ecco, quello che sappiamo è che non si può fare mercato globale senza un'architettura politica che lo sia altrettanto. Ed è semplice, cioè così come nei mercati nazionali ci sono state tutta una serie di mosse di carattere integrativo in funzione dei controlli, in quanto i mercati sono istituzioni, non sono luoghi di relazioni selvaggi, così deve avvenire anche per il mercato globale, probabilmente in un percorso di secoli, dove però il fatto di trovare queste capacità di governance globale ha un effetto anticipativo di fiducia e stabilità, cioè creare quello che io chiamo nei miei libri il fenomeno della convergenza. Prima di capire come si riesce a governare un mercato globale, cerchiamo di avere le nazioni convergenti. Allora, in tal senso, la cosa più importante è creare i luoghi, le pre-istituzioni di governo globale. Poi, il cosa esattamente fare starà per prova d'errore. Ecco, in questo momento, certamente l'idea di una rivalutazione dello yuan del renminbi è quella più è quella che va per la maggiore, in quanto si ritiene che ciò riduca la competitività delle esportazioni cinesi, riduca il deficit commerciale statunitense, eccetera, però potrebbe portare a gravi problemi nella Cina. Diciamo sempre globalizzazione, siamo nel mondo integrato, eccetera, è mezz'ora che stiamo tentando di collegarci con la Cina e naturalmente non ci riusciamo. Chissà perché, molto probabilmente ci sono linee sovraccariche, ma forse c'è anche qualche device in atto, perché insomma, diciamolo, la Cina non è proprio questo esempio di apertura. Ieri il presidente Barack Obama ha anche toccato questi punti negli incontri che ha avuto con studenti, sono degli incontri che naturalmente vengono oculatamente preparati in maniera tale che nessuno vada fuori disseminato. È vero che questo tipo di gestione avviene in qualunque incontro formale di Stato e di Governo, quando si finge di incontrare cittadini e studenti, avviene anche nei paesi occidentali, e non vi illudete che qui si facciano domande libere ai capi di Governo, però insomma lì è un pochino più controllata la faccenda e gli accenni che ha avuto con un tono molto deciso il presidente americano sulla necessità di allentare il vincolo strettissimo che le autorità cinesi tengono su internet, io personalmente lo considero poco più che un lip service, si direbbe in inglese, perdonatemi, non traduco, ecco, però è diciamo un omaggio poco più che formale all'importanza tradizionale dei diritti umani, della rappresentanza politica democratica, eccetera, eccetera. La realtà è che nei confronti della Cina noi abbiamo comunemente tutti, quasi tutti, senza eccezioni, deciso che abbiamo troppo bisogno di lei per poter pensare davvero che one size fits all, cioè che la libertà, la democrazia, le istituzioni eccetera eccetera sono quello a cui siamo abituati, sono davvero il metro su cui giudicare il suo sistema politico. Abbiamo accettato, in altre parole, che per il contributo alla crescita mondiale più che democrazia sia forme di democratura quelle che, senza stare troppo a spaccare il capello in quattro, vanno accettate, perché ognuno ha la sua storia e questo è fondamentale. La storia non fa i salti e poi soprattutto ciascuno ha i suoi modelli di riferimento, e non è affatto detto quindi che per quanti secoli possano passare in Cina davvero il modello di rappresentanza liberal democratico sia quello destinato a investire la vita e a trasformare la rappresentanza dei miliardi di cinesi. Detto questo, ci diceva il professor Pelanda, noi dobbiamo abituarci a istituzioni capaci di creare convergenze e capaci di creare fiducia. A giudicare, torno ancora su questo aspetto del cambio, a giudicare da quello che è avvenuto in questi ultimi anni, in realtà i cinesi hanno il coltello dalla parte del manico, perché loro hanno rivalutato rispetto al dollaro nei 5 anni precedenti alla crisi più o meno del 17-18%, quindi hanno un po' accontentato gli americani, poi hanno tenuto fisso il rapporto di cambio e non ascoltano minimamente gli americani. Sui grandi giornali internazionali, anche oggi, per chi compra Financial Times e Wall Street Journal, si trova entrambi i quotidiani che aprono con dichiarazioni di Bernanke, il presidente della Fed, che dice che riassicura i mercati sulla necessità di un dollaro forte, ma si tratta di pure flautus voci, perché tutti noi sappiamo che gli americani hanno in realtà interesse a svalutare il dollaro, hanno questo interesse perché significa diminuire il valore reale dei debiti privati e pubblici americani, entrambi, quelli privati fortissimi negli anni alle nostre spalle, quelli pubblici fortissimi perché il debito pubblico sta esplodendo. E quindi siamo tutti abituati ad attribuire alle parole di Bernanke e della politica americana di Timothy Geithner, che ci dicono vogliamo il dollaro forte, una lettura esattamente opposta. Sappiamo che ciò che mirano è l'opposto. Dall'altra parte abbiamo i cinesi che naturalmente dicono no, ma non vi preoccupate, ma noi ridurremo il nostro export, il nostro attivo commerciale. Ci ha ricordato il professor Vaciago che dal punto di vista di mercato questo significherebbe automaticamente abbracciare la linea della rivalutazione della propria moneta, e dall'altro però hanno cessato di rivalutarla. In altre parole, professor Pelanda, siamo abituati al bispensiero, cioè siamo abituati ad attribuire alle dichiarazioni di ambo le parti, non solo dei cinesi, una lettura che è totalmente opposta. Nelle nostre operazioni di mercato, per chi gestisce i mercati della moneta, dei futures eccetera eccetera, le chiedo: che convergenza di fiducia è quella in cui tanto i regolatori di una parte quanto quelli dell'altra orwellianamente dicono l'esatto opposto di quello che vogliono? Beh, chiariamo un punto, cioè il fatto di dire che in teoria è necessaria per fare mercato globale avere prima o poi una governance globale, cioè e prima di averla ci vogliono istituzioni convergenti, questo non vuol dire che la tendenza sia in atto, anzi è in atto quella contraria. Cioè, il mercato è un oggetto politico e quindi ha bisogno di un potere, di un impero. Se c'è l'impero, il mercato in qualche modo funziona, se non c'è, non funziona. Alla fine degli anni 90, inizio del 2000, diciamo, l'impero americano ha cominciato a cedere su alcuni punti sostanziali della struttura, e quindi il difetto di governance deriva da questo, cioè nel senso che se in un negoziato tra americani e cinesi sulla questione della rivalutazione dello yuan, che è una decisione politica, i cinesi dicono sì, capiamo, però noi abbiamo degli interessi, siccome siamo più grossi voi non ci potete obbligare, dateci qualcosa in cambio. E il povero Obama sta calando le braghe, dando via politica per avere in qualche modo vantaggi economici di vario tipo. Quindi diciamo fondamentalmente la crisi della divergenza nel mercato globale è una crisi di assenza, di indebolimento dell'impero americano senza che ce ne sia un altro in vista. Professor Vaciago, c'è chi ogni tanto evoca, parliamo in questo caso di osservatori specializzati e così via, la necessità di tornare ai cosiddetti accordi del Louvre, cioè quando in realtà gli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 unilateralmente dichiararono il fatto che il dollaro finiva di essere convertibile, prima in euro, prima in oro e così via, si andò verso un mare che era sconosciuto fino a quel momento, col dollaro fluttuante, delle conseguenze che iniziarono a manifestarsi nell'economia dei paesi avanzati. Oltretutto si aggiunse rapidamente anche la prima grande crisi da shock sul versante della domanda per l'energia, e si tentò in un processo di scoperta un nuovo meccanismo, insomma, di gestione meno fluttuante di quei cambi. Che cosa quegli anni, c'era Guido Carli che era un protagonista di quel dibattito all'epoca, che cosa quegli anni possono insegnare? La necessità che queste tre macro aree oggi vadano verso una gestione dei flussi di cambio un pochino più convergente? E anche allora si vide che un negoziato che non si basi sugli interessi permanenti di un paese non ha senso. Attenzione, io non dico oggi che la Cina deve regalare all'America, o meglio a noi, un apprezzamento dello yuan perché così noi applaudiamo. Io dico che l'economia cinese si sta surriscaldando per un cambio sbagliato, i cinesi ci mettono un po' di tempo a imparare, ma prima o poi devono rivalutare la loro moneta come normale intervento di politica economica, anzitutto nel loro interesse e non per regalare a noi. La Cina ha fatto un anno fa una manovra di sostegno di una recessione che non aveva e oggi si trova in un'economia in boom perché il mondo è ripartito e la Cina non ha mai avuto la grave crisi nostra, che riguardava solo noi e non lei, ma ha fatto lo stesso una manovra di sostegno alla sua domanda. Se vado a vedere cosa sta succedendo oggi in Cina, è chiaro che sono nella fase del ciclo così avanti che hanno bisogno di frenare. È anche vero però che da agosto infatti la Banca Centrale Cinese ha diminuito molto l'intensità della liquidità offerta al mercato, cioè si è potuta permettere subito un exit strategy perché, come dice lei, in realtà in crisi non c'erano mai entrati. Ma il paradosso è che sono costretti a strizzare un'economia che è sospinta dal cambio fisso col dollaro debole. E quindi devono apprezzare la loro moneta nel loro interesse. Questo glielo può spiegare il Fondo Monetario, glielo possiamo spiegare noi, lo capiscono purtroppo in ritardo anche da soli, quindi prima o poi io prevedo un apprezzamento del yuan nel loro interesse. Loro devono imparare, cosa che ovviamente faranno prima o poi, che il cambio è uno strumento di politica economica. Tenerlo fermo col dollaro, perché questo è il modello da 10 anni loro, può diventare sbagliato. E chi è l'organo internazionale? Io spero che G20 faccia anche queste lezioni di economia elementare, economia 2 diciamo, alla mia università, in cui si spiega ai paesi, ai governi, che i cambi si chiamano così anche perché ogni tanto cambiano, non sono fissi, si chiamerebbero cambi. Professor Pelanda, il professor Vaciago ci dice abbiamo un'azione anche didascalica da compiere nei confronti delle classi dirigenti cinesi. Un po' di miei amici economisti americani dicono io oramai ho imparato a fidarmi più degli economisti del banchiere centrale cinese che del mio americano. Cioè la domanda che le faccio è per esempio Xiao Chuan, che è attualmente il presidente della banca centrale cinese, e, insomma, è uno, non è un funzionario di partito, lì è pieno di gente che oramai ha studiato negli Stati Uniti. Lei, per come li conosce, che dice? Quanto ci hanno bisogno ancora di imparare? Quanto sono in grado di insegnare a noi? Ecco, non lo so. Beh, è difficile dire. Sicuramente gli studenti che ho io in classe, cioè gli studenti già laureati che fanno il dottorato di ricerca all'università negli Stati Uniti, che vengono dalla Cina per poi tornarci, sono di gran lunga i migliori. Proprio non c'è paragone con gli americani e con gli europei che vengono a studiare lì. Quindi, diciamo, a pelle le posso dire che abbiamo un paese emergente con una formazione di elite che sono assolutamente di eccellenza, selezionati dal partito. Evidentemente si vede che la loro madre, quando erano piccoli, si svegliava di notte per farli studiare. C'è un sistema di educazione competitivo, meritocratico, diciamo, è fondamentalmente la Cina punta all'eccellenza, come in qualche modo lo fece anche la Germania nazista, e non ci sono molte differenze tra i due modelli di capitalismo autoritario. Quindi, diciamo, sulla qualità delle elite cinesi direi che non c'è dubbio, poi uno lo percepisce come una promessa buona per il futuro, o qualcun altro come me come una grande minaccia. Professor Vaciago, mentre noi non riusciamo, quindi definitivamente rinunciamo per la puntata odierna a collegarci con Francesco Sisci, corrispondente della stampa dalla Cina, che ci doveva dare i ritorni di là, feedback di là della visita in corso di Obama. Ma professor Vaciago, le chiedo, siccome girando per le assemblee territoriali di Confindustria si sente in queste settimane un crescendo, tutte le volte che il presidente Emma Marcegaglia cita il fatto che il cambio del dollaro sull'euro sia arrivato a 1,50, come una delle condizioni di maggior limite della ripresa italiana, dell'export italiano sui mercati internazionali, parte inequivocabilmente sempre un applauso che è diventato crescente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. E quindi io la domanda gliela devo fare: ma se poi sti diavoli di cinesi si convincessero davvero a mettere il mercato al centro degli andamenti di prezzo della loro moneta, e in cambio noi dovessimo avere poi un dollaro che va a 1,6, 1,7, chissà, forse fino a 8, 1,8 dicono alcuni sull'euro, non è che passeremo dalla padella alla brace? Beh, certamente il problema paradossale che noi abbiamo in questi 10 anni, perché non è di oggi, è che siamo impegnati grazie all'euro a diventare più europei, ma viceversa, poiché in contemporanea è iniziata anche questo divertente mondo globale, stiamo diventando più globali. E allora delle due l'una, insomma, in futuro noi siamo parte di un'economia integrata mossa dalla domanda interna, o noi e i tedeschi rimaniamo i servitori del mondo e quindi è il cambio euro altre cose, che è la moneta che decide i nostri successi. Negli anni scorsi, prima di questa grande crisi, noi eravamo tornati ad essere export led, fuori dall'euro, come la Germania stessa, cioè eravamo tornati ad essere un paese mosso dal mondo. Quanto a lungo l'Italia può rimanere un paese che non ha un motore alla sua crescita, al suo interno, e che va bene solo quando le nostre migliori imprese del Made in Italy, come della meccanica, servendo qualità al mondo intero, ci consentono di crescere? Perché questa è l'esperienza 2003-2007. Stiamo tornando lì, tornando a sperare che il cambio ci riassista a tornare a crescere, cioè proprio un governo nazionale non ci interessa averlo, una politica economica europea ad essere parte integrante di un'area economica di 300 milioni di persone che basta e avanza. La cosa che mi preoccupa sempre è che tutto questo discorso sul cambio che gli italiani hanno in testa è perché noi siamo servitori del mondo, però allora non si capisce come poi questo paese, che non sono quattro gatti, 60 milioni, riesca a fare una sua politica economica. E il punto è che naturalmente nell'invito, nell'interrogativo che ci dà il professor Vaciago, cioè nella necessità di fare uno shift, una svolta, riponendo il più dove si forma il valore aggiunto, quasi il 70% viene dai servizi nel nostro paese, non viene dalla manifattura esportatrice. Eppure il paradosso è che quel meno del 30% della manifattura fa il 70% della crescita potenziale del nostro paese, cioè quella rivolta alle esportazioni. Però naturalmente l'appello di Vaciago poi va anche interpretato, significherebbe per milioni di italiani titolari di interessi accettare l'idea che porre la domanda interna, il mercato interno, il mercato domestico al centro del nostro output potenziale significa renderlo più competitivo, aprire la concorrenza, quindi rinunciare a rente di posizione che oggi non sono esposte ai meccanismi della concorrenza, eccetera eccetera eccetera. Significherebbe alzare la produttività dei servizi gestiti in pubblico o in privato, che sono a produttività molto più bassa della manifattura che da decenni va sui mercati internazionali. E quindi è un appello apparentemente molto ragionevole, che io condivido, quello di Vaciago, ma che per molti di voi in ascolto significherebbe accettare di lavorare di più, lavorare meglio e in condizioni, diciamo così, di processo di scoperta quotidiano di cosa vuol dire il mercato, cosa che gli italiani poi a parole vogliono sempre, ma a casa del vicino, mai a casa proprio. Professor Pelanda, Il bilancio che lei trae da un anno di Obama, perché oramai anche di questo si tratta, di non solo negli Stati Uniti, sono i Tea Party, la gente è un po' delusa per il deficit del debito pubblico che significherà troppe tasse, il presidente in questi giorni ha detto agli europei dimenticatevi Copenaghen e i vostri sciocchi obiettivi di Kyoto, perché c'è da pensare a uscire dalla crisi, non certo a diminuire le emissioni energetiche. I cinesi di questo sono felici. La sua impressione è che questo meccanismo di governance globale, a un anno di distanza delle elezioni americane, che tipo di bilancio porta per questo enorme processo di speranza un po' eccessiva, io l'ho sempre criticata, che si accentrava su questa figura di presidente? Lei che pensa? Ma in termini non diplomatici direi che è addirittura ridicolo, cioè nel senso che da un lato il povero Obama si è trovato nel mezzo di una, diciamo, di una decadenza, diciamo, della forza americana, non dovuta semplicemente al fatto che il mondo è diventato più grande, non che l'America sia diventata più piccola, però il risultato non cambia. E invece di gestirlo con prudenza, riconsolidando le alleanze forti, andando a individuare quali erano i punti di forza per poter ancora in qualche modo gestire questa transizione di potere, o comunque limitarla, o trovare una nuova architettura politica dell'Occidente per mantenerne il dominio, nel senso benigno del termine, con molto dilettantismo ha accelerato lui stesso la transizione, ha cercato di fare come un'operazione politica alla periferia di Chicago, cioè è andato dai cinesi, ha detto facciamo business, voi mi date una mano da una parte, io vi concedo quello che chiedete, cioè la fine della pressione democratizzante, il riconoscimento di potere alla pari con l'America, l'esclusione degli europei dal business. Questi sono atti di dilettantismo, cioè voglio essere chiaro. Da un lato qualsiasi presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto fare una mossa, per esempio, verso l'Asia e di concessione alla Cina, però come l'ha fatta Obama è una cosa appunto che viene considerata ridicola, cioè ha sbracato senza dare condizioni. Abbiamo un precedente peraltro, sempre in ambiente di amministrazioni democratiche, che è l'enorme errore che fece Clinton, che fondamentalmente è la fonte dei commenti che lei così brillantemente sta facendo questa mattina. Perché concesse, mi permette la semplificazione, certo, l'accesso al mercato globale a Pechino senza chiedere alcuna condizione in cambio. Ma questo è un ricordo che nel dibattito italiano potentemente Giulio Tremonti più di altri ha fatto negli ultimi anni, sollevando anche molte polemiche. Oggi mi pare che a crisi oramai più che inoltrata, quelle polemiche questo punto sono state sostituite dalla comprensione di una realtà che resta complicata, come abbiamo visto oggi, e che vede l'Europa non certo più forte di prima, ma più debole di prima, meno presente di prima. Professor Vaciago è un ottimista su questo perché è un gradualista. Io temo che forse l'Europa e l'Italia stiano perdendo punti decisivi, e quindi vediamo poi nel medio periodo se questi banchieri centrali siano così callidi e prudenti o abbiano anche responsabilità su quello che è avvenuto, secondo me molto molto serie, e che restano ancora oggi non emendate. Bene, io ringrazio il professor Vaciago, ringrazio il professor Pelanda, too bad non ci siamo riusciti a collegarci con la Cina, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, Alessandro Marcotulli in redazione, appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente.